Benvenuti. Questa è Radio Exalge e noi siamo il collettivo Fiuminarso. Siamo gruppi nati a distanza, ma sullo stesso meridiano, nella stessa linea di immaginazione. Ci siamo incontrati in quello che non riuscivamo a vedere qui. Cosa c'è tra l'antenna della RAI alla vostra destra, fiera e trionfante, le macchine tra i parcheggi, piste ciclabili che finiscono troppo in fretta, tra finestre illuminate come una scacchiera davanti a voi? Exalge nasce all'angolo di questa strada, in un'ex fabbrica che produceva piccoli ingranaggi per grandi macchine, inquilina delle imponenti tre torri in contrasto e ad incastro, producendo valori di comunità e solidarietà. Fiuminarso nasce da tutto ciò che occlude lo sguardo, dall'insofferenza dell'imposizione il dover cancellare la nostra memoria per affermarci nel luccichio delle terre promesse e ricche, scoprendo invece eversivi e liberatori i sussurri di questi luoghi dimenticati. Ci siamo ritrovati in una domanda comune. C'è tutto quello di cui abbiamo bisogno qui? O ci sta sfuggendo qualcosa? Qui si resiste, si lotta, ma cosa si vince? Noi siamo andati lontano per ricordare ciò che ci sfuggiva, per ritrovarci in un altrove che si chiama Cropalati, 1077 chilometri da qui, 220 ore di cammino, 1110 abitanti. Oggi, in questo breve percorso sonoro, vi riporteremo in un altrove che esiste, come le tre torri, come tram, le car sharing, in un mondo silente che può esistere solo se raccontato. Le testimonianze di anziani, viandanti e bambini che ascolterete di questo borgo rievoca la storia di Penelope Ulisse, ma soprattutto abbiamo scoperto che può essere il nostro presente, che intreccia in questo preciso istante noi e voi. Ora, seguite i passi di Carmen, alzerà la mano e vi indicherà il ritmo di questo breve cammino. Vi chiediamo di guardarvi intorno, sistemarvi le cuffie e iniziare. A te che leggi. A te che ascolti. A te che guardi. A te voglio lasciare questa testimonianza. Siamo dovuti fuggire per le bombe, per i terremoti, per le frane, per la crisi. Siamo dovuti fuggire di corsa, senza cedere in false speranze o vani progetti. Non serviamo, nel senso che non asserviamo nessuno. E per questo ci hanno detto che eravamo inutili e che dovevamo trovarci qualcosa di utile, di serio. Il prezzo della fuga era tralasciare, anzi no, lasciare, tra gli ulivi e gli agrumeti di queste terre, i possidenti e nobili, qualcosa di invisibile, i nostri fantasmi. Borse, libri, specchi, qualche pomodoro e mela raccolti. Lo sapevamo che non potevamo portarci tutto. La fuga non lascia indenni la nostra dignità, ci rende meschini. Abbiamo lasciato la nostra possibilità di stare, del silenzio, della noia, dell'impossibile. Alcuni di noi hanno deciso di restare, perché qui i vecchi dei paesi sono belli, parlano una lingua che distende, hanno un senso di innocenza. Tra le pietre di queste mura sono intrappolate le nostre storie di vita interrotte, non ritrovate. Sono schiacciate le parole che avremmo voluto dire, le mani fuori dalla tasca, la lingua lunga e irriverente. Maledette e intrappolate qui, in questo borgo, solo perché non sapevamo distinguere il vuoto dal silenzio e confondere le cime con gli altari. Nessuno sarebbe tornato qui. La maledizione inferta fu questa. Una parte della nostra storia sarebbe per sempre rimasta nel paese, fin quando qualcuno non avrebbe invertito la rotta, decidendo di stare con noi, di raccontarvi la nostra storia, di non andare via da qui, di ascoltarci. A te, che stai ascoltando questa testimonianza, ti chiedo di liberare per sempre questo mio ricordo chiuso nella solitudine di questo intonaco, tra le macchie gialle delle pietre, di lasciarlo andare per ricominciare a fluire. Oh. niente che facevamo, che correvamo senza mangiare, senza scause e corrinure, si può dire. Io mi sono le prime scarpe a 16 anni. Aveva le scause, che sarebbe venuta una corcia di tutte così. Che sono i calangeli? Sarebbero delle ciabatte fatte con copertoni di macchina e poi sopra mettevano dei lacci. Ma chi le lavavano? Non tutti, Qua, immagino qua da piccolo con le sedie uscivano le signore alla sediolina dove sei seduta tu. E queste case ora sono vuote? Tutto disabitato. Resteranno ricordi. Non riuscirebbe ad andare a vivere in un altro posto. Ma io sono abituata a casa, sono abituata a parlare a letto, magari non è c'è più se l'abitudine nostra ormai. È una cosa bellissima. Ormai non riuscire naturalmente. Magari uno che sa parlare l'italiano magari non sa fare quello che sappiamo fare noi, per pure cose di mangiare, cose, un sugo, faccio concetti di carne. Quando il tempo si srotola in un burrone in cui non riesco a fermare quello che accade, penso alla Vinella, così ferma, precisa, piccola e gentile, a tutte quelle volte che l'ho attraversata, angoli di terra in cui è possibile saper stare, aspettare, non da consumare, da calpestare. Ricordo il profumo del pane del forno di Cropalati quando andavamo a comprare la merenda prima di andare all'asilo. Molte cose sono cambiate da come era una volta, ma di quello che è cambiato tantissimo, i giochi che si facevano una volta. Noi giocavamo a restacce, a pizza e mazze, le cocole, tantissimi giochi, caselle, tu ti ricordi pure i caselli, giocava le caselle? Sì, è uno, due, tre, la campana. Da piccola i miei momenti di socialità quando uscivo sotto casa era stare lì in compagnia degli altri bimbi delle case limitrofe. Sei bella, io non sono bello, ma allora sei cattivo. Penelope, moglie del re di Itaca, aspettò il ritorno di Ulisse per 20 anni, senza sapere se fosse vivo, felice, in guerra, o anziano, fedele, non importava per quanto tempo ancora. Penelope tesseva la tela per ingannare il tempo e la notte la disfaceva. Creava e distruggeva, come se l'amore avesse bisogno di questo. Un'attesa che non lascia indenni. I miei figli sono a Siracusa. Sono andati via tutti e due? E tutti e due hanno avuto più la carriera. Secondo lei hanno fatto bene ad andarsene o sarebbero dovuti rimanere qua? Ma qua cosa andavano a mandarine e arance e agli olivi, il lavoro che ho fatto io, no. E lei spera che prima o poi ritornino? No, qua no. Vado a birra, vado a birra. No, vieni qua. Vado un cazzo di meridionale, va al tuo paese, va. Tarum. C'è qualcosa che cambierebbe qui per sentirsi meglio? La mentalità della gente, tantissimo. Cambierei tantissime cose. Zan! Vieni qua. Il cane del paese, no? Era un cane abbandonato, randaggio. E mo si è affezionato a me, gli do da mangiare. Okay. E sta qua. Sì. Sì, ma ormai ha delle teste, signore. Deserto. Il giovane, pure quello che fate voi, pure che fate la serata, non verranno. Quando Ulisse tornò, dopo il suo lungo viaggio, fatto per conoscere, scoprire e rimanere umano, lei non lo riconobbe. Non riconobbe più chi stava aspettando, per chi creava e disfaceva, per chi intrecciava le cime e snodava le dita. Questa Vinella mi ricorda la tela di Penelope, che è resistenza e appiglio, protezione e certezza, prigione e attesa, ma soprattutto è una via inizia e continua verso un'altra rotta, un'altra piazza, un'altra tappa. Siete arrivati nello spazio in cui il suono diventa immagine e i sussurri e racconti sentiti finora ritornano alla terra. Una volta entrati, alla vostra destra troverete un lavoro di ricerca di due architette inserito in modo inedito in questo percorso, mattonelle che riportano rilievi topografici tra borghi del versante tirrenico-calabro, attraversati dal fiume Savuto, articolati secondo sezioni idrografiche. Ci sembra distante questa rappresentazione. Invece, restituisce il modo in cui i viaggiatori ottocenteschi riconoscevano queste terre per individuare la permeabilità del luogo. È una rappresentazione funzionale alla necessità. È grazie a questa che si riconfigura ogni volta l'identità dei territori. In questi tasselli, seppure divisi da altrettanti spazi e linee, si racconta un atto. La terra che riemerge dalla luce filtrata grazie a chi è capace di guardarla e poi rappresentarla. Così i suoni possono non perdersi e materializzarsi. In queste linee di ricerca, di voci e sguardi, vi chiediamo di perdervi ancora, di riporre le cuffie nelle tasche e vi auguriamo buona visione.